arrivo all'ultimo punto che è quello dell'esodo cosiddetto. Allora, l'esodo è un fenomeno che non è strettamente legato al fenomeno delle cosiddette foibe, perché non avviene immediatamente dopo questi arresti di cui stiamo parlando. È un fenomeno che dura circa 10 anni, cioè comincia con la fine della guerra e termina sostanzialmente nel 1954, quando viene definitivamente stabilito il confine tra Italia e Jugoslavia. Ha un apice nel 1947, cioè quando viene firmato il trattato di pace, come giustamente ricordato, viene firmato proprio il 10 febbraio del 1947, quindi in qualche modo noi celebriamo come data del giorno del ricordo la data del trattato di pace che ha posto fine alla Seconda Guerra Mondiale. Ma perché? Perché in fondo l'Italia non ha la consapevolezza del fatto di essere stata sconfitta in guerra. Con il fatto che dopo l'8 settembre in qualche modo abbiamo cambiato fronte, abbiamo avuto l'esperienza della guerra partigiana che certamente va ricordata, ma abbiamo avuto anche come dire, un passaggio di fatto: l'Italia a un certo punto ha dichiarato guerra alla Germania e si è schierata ufficialmente, l'Italia del Sud, l'Italia del Re, si è schierata ufficialmente contro la Germania nazista, e quindi in qualche modo si presenta alla fine della guerra e si presenta ancora oggi come una potenza non proprio vincitrice, ma comunque che alla fine stava dalla parte giusta. Il problema è che invece no, l'Italia ha cominciato la guerra insieme ai nazisti ed era dalla parte sbagliata, e quindi l'Italia è una delle forze che hanno perso la Seconda Guerra Mondiale e quindi ovviamente di conseguenza perde anche dei territori. L'esodo di fatto è una conseguenza della perdita dei territori, cioè il cambiamento di confine. In una logica di contrapposizione nazionale e contrapposizione ideologica, ovviamente il cambiamento, lo spostamento del confine provoca anche uno spostamento di popolazione. Questo non lo dico perché sia scontato, ma lo dico come un fatto storico, perché è esattamente quello che succede in tutta Europa. Questa è la mappa, molto, ovviamente molto poco articolata, insomma molto banalizzata, degli spostamenti di popolazione avvenuti alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. La grandezza delle frecce rappresenta la grandezza delle cifre, diciamo, di numero di popolazione che cui si fa riferimento. Come vedete, la freccia diciamo, proveniente dal confine orientale italiano è significativa, ma non è sicuramente la più grande. Questo spostamento di popolazione rientra in una casistica che è molto molto presente soprattutto nell'est Europa, perché nell'est Europa, banalmente perché nell'est Europa i confini si spostano di tanto, si spostano anche di centinaia di chilometri, come forse si capisce un po' dai colori della mappa, e quindi milioni di persone si spostano in questi territori. Si spostano in maniera più o meno forzata, nel senso che ogni contesto è differente, ogni storia è differente, ci sono casi in cui effettivamente le persone sono obbligate ad andarsene di fatto a norma di legge, e ci sono circostanze in cui invece le persone scelgono di andarsene perché diciamo, la situazione in cui si trovano non gli consente di sopravvivere degnamente o comunque si sentono minacciati. Questo è sicuramente il caso dei profughi istriani, è un contesto dove gli italiani che hanno appunto dominato per decenni e che diciamo, nel nome del quale il fascismo ha anche commesso dei crimini non irrilevanti, si sentono in gran parte minacciati, si sentono minacciati, ma si sentono anche diciamo, scontenti di vivere in un sistema comunista, un sistema che concretamente gli toglie molti privilegi. Ma gli toglie spesso anche la possibilità concreta di vivere, nel senso che la Jugoslavia del dopoguerra è uno Stato che impone un sistema sostanzialmente stalinista, si rifà esattamente all'Unione Sovietica di Stalin e impone una collettivizzazione forzata delle terre, tanto per dirne una nazionalizzazione delle proprietà. E quindi, appunto, chi possiede delle terre, chi possiede delle proprietà, non è sicuramente felice di vivere in un contesto del genere. Quindi, se ha la possibilità di andarsene, spesso lo fa per propria scelta. Appunto, ci sono in questa parte d'Europa ci sono, tanto per fare dei numeri, 12 milioni di tedeschi che si spostano verso la Germania occidentale. diciamo, le persone che scelgono di andarsene dall'Istria sono circa 280.000, di cui circa si calcola siano circa 250.000 gli italiani. Dico si calcola perché, ritornando all'inizio del mio racconto, è difficile stabilire chi fosse italiano e chi non fosse italiano. Vi faccio solo un esempio, così, dato che nasce dalla mia esperienza personale. Io andavo al liceo in una zona dove abitavano gli istriani, a Torino. A Torino c'è una comunità istriana molto significativa, appunto arrivata da noi dopo la guerra, anche grazie alla presenza della Fiat. Ecco, quindi nella mia classe c'erano diversi nipoti di profughi istriani. Un mio compagno, che era fortemente anticomunista e fortemente nazionalista italiano, insomma si riconosceva come un grande nazionalista italiano proprio a causa di questa esperienza familiare, si chiama Kervatin. Kervatin è l'italianizzazione di Kravatin, che vuol dire croato. Quindi proprio il suo stesso cognome voleva dire croato. Ora, io all'epoca non lo sapevo ancora, l'ho imparato dopo, se no gliel'avrei detto volentieri, ma non per sminuire la sua appartenenza. Lui sicuramente si sentiva italiano. Questo, appunto, le appartenenze nazionali sono appartenenze scelte, non derivano dal sangue, ma sicuramente nel suo sangue qualcosa di croato ci sarà stato, questo è certo. Aggiungo solo una cosa sulla questione della scelta, di nuovo sempre per allargare il quadro e comprendere meglio le cose. Vedete delle frecce rosse, i rossi sono i tedeschi che provengono anche dalla Jugoslavia. In Jugoslavia c'era una comunità tedesca molto numerosa, almeno altrettanto della comunità italiana. La comunità tedesca di Jugoslavia viene espulsa a norma di legge dalla Jugoslavia, proprio c'è una legge che dice che i tedeschi se ne devono andare, a meno che non abbiano avuto benemerenze nella guerra partigiana, cioè non abbiano combattuto insieme ai partigiani jugoslavi, sono costretti ad andarsene. Questo appunto non è il caso degli italiani, dove non ci sono ordini delle leggi, ordini del genere. Anzi, al contrario, leggendo i documenti jugoslavi pare evidente come il governo jugoslavo cercasse in tutti i modi di trattenere la popolazione italiana, sia per non perdere forza lavoro qualificata, ma sia anche per non dare appunto una cattiva impressione di sé all'estero. E l'ultima cosa che aggiungo su questo è che questo fenomeno non riguarda soltanto l'Europa orientale e non riguarda soltanto altre popolazioni da quelle italiane, perché ci sono spostamenti di popolazioni che riguardano anche gli italiani e anche altri territori. In particolare ci sono circa 200.000 italiani che sono profughi dai territori francesi, in parte proprio dai territori di confine e in parte dalla Tunisia. In Tunisia la popolazione italiana era superiore a quella francese, ma di gran lunga, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli italiani anche in questo caso non vengono propriamente espulsi, ma vengono, diciamo, caldamente invitati ad andarsene, quindi appunto sono circa 200.000 gli italiani che sono profughi della Tunisia. Ora, concluderei con una battuta, mi chiedo se è il caso di stabilire anche una giornata in ricordo dei profughi italiani della Tunisia, sarebbe interessante, forse varrebbe la pena di farlo. Forse quest'ultimo discorso può sfatare l'ultimo luogo comune, l'ultimo mito che siamo abituati a sentire, che è quello dell'espulsione, di nuovo della pulizia etnica, cioè l'espulsione della popolazione italiana. Innanzitutto non si è trattato di un'espulsione, ribadisco, è una scelta condivisibile, io credo che avrei fatto lo stesso in quel contesto, quindi non voglio criticare nessuno, e chiaramente lasciare la propria terra, la terra dove per secoli ha vissuto la tua famiglia, non è facile, sicuramente un dramma, però appunto non è un'espulsione e oltretutto non è un'espulsione su base nazionale. Ripeto, su 280.000 gli italiani probabilmente sono 250.000, ci sono almeno 30.000 persone che non sono italiani, che vanno via da queste terre, evidentemente per altre ragioni, quindi non per una identificazione con la nazionalità italiana, appunto ragioni politiche, ragioni di tipo sociale, di tipo economico. Peraltro moltissimi di questi profughi non si trasferiranno in Italia, molti andranno all'estero, andranno in Canada, andranno in Australia. Quindi non è una scelta di italianità come spesso ci viene rappresentata. Io vi ringrazio e a voi la parola. Come diciamo, se ci sono domande, tanto mentre si senta vai, anche dal gusto. Allora, lei parlava che molta gente innocente faceva parte del regime fascista e veniva uccisa. Ora, allora sono ragione che molti familiari, molti praticamente figli, familiari fascisti venivano uccisi, tra cui era Normanno Cossetto. Il caso di Norma Cossetto è stato molto raccontato in questi anni, perché ovviamente è un caso particolarmente drammatico e che dà un'immagine molto, molto negativa, molto, molto barbara, diciamo, di quell'evento. Per chi non lo sapesse, Norma Cossetto è appunto una ragazza che viene uccisa appunto nel 43, se non ricordo male, vero? Nelle foibe del 43. In realtà, diciamo, lei, da quello che ci sono molti discorsi retorici anche su questo evento, cioè quello che si sa concretamente, cioè le fonti vere, lo storico parte dalle fonti, cioè i dati veri e propri, cioè che cosa si sa concretamente di questo, si sa pochissimo, nel senso che si sa che è stata uccisa, si sa che è morta, si sa che è stata uccisa, si racconta spesso di violenze che lei ha subito prima di essere uccisa, su questo per esempio non ci sono testimonianze dirette, per cui non si può escludere naturalmente, ma non c'è certezza. Quello che sicuramente si sa è che lei non era parente di fascisti, lei era fascista esplicitamente, voglio dire, era iscritta ai gruppi universitari fascisti, era un attivista anche a livello locale nel partito fascista, quindi era esposta, diciamo, in prima persona come rappresentante del partito fascista. Questo ovviamente non è una giustificazione per uccidere nessuno, ci mancherebbe altro. Ribadisco, queste cose vanno comprese, non giustificate, ma comprese nel contesto di guerra di cui abbiamo parlato, con un contesto di guerra di estrema violenza, di estrema difficoltà di comprensione da parte di chi vive quelle esperienze. Per cui, insomma, non nego l'evento in sé, c'è stato questo evento, ma ci sono stati sicuramente tanti altri eventi di persone del tutto innocenti, probabilmente anche del tutto estranee al partito fascista, che sono cadute vittime di queste violenze, specie nel caso di violenze spontanee. Nel caso del 43, come dicevo prima, la maggioranza delle vittime sono vittime di violenze spontanee, quindi non orientate né dal Partito Comunista né dal Movimento Partigiano, ma semplicemente dovute a una rivolta spontanea della popolazione dopo appunto le violenze subite nei decenni precedenti. Appunto, di nuovo, non per giustificare, ci mancherebbe altro, ma per comprendere, questo è fondamentale. Il rapporto tra italiani e jugoslavi nel corso degli 70, 80 è cambiato o è sempre rimasto un razzismo in fondo? Il rapporto tra italiani e jugoslavi, dici? Diciamo che forse è una domanda difficile. È una domanda difficile, io credo che ci sia di fondo un fortissimo razzismo anti-slava da parte italiana. Non è difficile parlare di un razzismo anti-italiano da parte slava, nel senso, c'è stato un conflitto nazionale molto forte, credo l'ho trattato in maniera molto rapida per questioni di tempo, ma fin dalla seconda metà dell'Ottocento e poi a maggior ragione nella prima metà del Novecento, c'è stata, da quando è cominciata a esserci questa identificazione nazionale, questa necessità di schierarsi, di identificarsi con una singola nazionalità, c'è stato uno scontro politico, un conflitto molto, molto forte tra le nazionalità presenti su questo territorio, quindi quella italiana, quella tedesca e quella slava. E questo è, come dire, ha portato anche alla crescita di un astio, ma direi appunto in particolare da parte italiana nella prima metà del Novecento, un vero e proprio razzismo antislavo, cioè la percezione che gli slavi fossero una razza inferiore. Questo nel contesto, ovviamente, in un contesto che fortunatamente possiamo in qualche modo considerare passato, di percezione dell'esistenza delle razze innanzitutto e di valutazione dei livelli culturali in base a una identificazione razziale, quella che poi porta ai drammi della Shoah, insomma, per capirsi. In questo contesto, ecco, sicuramente il nazionalismo italiano si è molto appoggiato a un'idea di inferiorità della razza slava, cosa che viene dichiarata apertamente da Mussolini in più di una volta, per dire, insomma, e anche da moltissimi altri ideologi fascisti o capi dell'esercito, eccetera. Da parte slava non c'è mai stato questo atteggiamento, diciamo, di superiorità nei confronti degli italiani o di vero e proprio razzismo nei confronti degli italiani. Certamente un conflitto nazionale c'è stato, questo senza dubbio. Partendo da questi presupposti, diciamo che è difficile dire se negli anni 70 o addirittura oggi sia ancora presente un razzismo. Io credo che ci sia latente un certo fastidio reciproco, questo sì. Diciamo che nel nostro attuale confine orientale, dove esiste una minoranza slava, si può percepire ancora oggi in alcuni casi, soprattutto nelle persone più in là negli anni, una percezione di superiorità nei confronti degli slavi, ma è sicuramente molto minoritaria oggi come oggi. Lo stesso, devo dire, dall'altra parte si può percepire oggi, soprattutto con l'entrata nell'Unione Europea di Slovenia e Croazia, un miglioramento del tenore di vita, eccetera, un atteggiamento un po' sprezzante da parte dei sloveni e croati nei nostri confronti. Io credo in parte anche dovuto proprio al modo in cui è stato celebrato il giorno del ricordo negli ultimi 15 anni in Italia. Questa insistenza sulla barbarie slava, sulla pulizia etnica, ha suscitato molto fastidio a livello politico, ma direi anche a livello proprio popolare in Croazia e in Slovenia. Sentirsi tacciati di aver commesso crimini quando in quei paesi è ben noto il fatto che il regime fascista ha commesso dei crimini nei confronti degli slavi per 20 anni e l'occupazione militare italiana ha commesso dei crimini ancora più gravi nei 2 anni di occupazione, sicuramente non è ben visto, e quindi ha suscitato fastidio dall'altra parte dell'Adriatico. Sì? Sì, io volevo fare una domanda, diciamo, riguardo al non tanto appunto la verità storica oggettiva come è stata ricostruita, ma rispetto alla tua percezione. In realtà sono due le domande. Cioè, la prima è diciamo, come si è giunti a questo tipo di memoria collettiva in Italia, questo tipo di narrazione divulgativa appunto della pulizia etnica, eccetera. Da una parte mi aspetto già almeno una parte della risposta, cioè appunto la strumentalizzazione di questi eventi in funzione anticomunista, antisovietica, e mi chiedo anche se ci siano ragioni più complesse. E la seconda parte della domanda riguarda invece qual è il rapporto fra questa narrazione e invece la memoria collettiva dei diretti interessati, cioè degli italiani che hanno vissuto l'esodo oppure dei parenti delle vittime, eccetera. Cioè, diciamo che queste, la percezione delle vittime è, diciamo, più o meno attinente alla narrazione che ci è stata consegnata, e quindi, diciamo, rispetto alle fonti incoerente o errata, oppure è anche sostanzialmente diversa rispetto al flusso di informazioni che, diciamo, si è imposto dal 2004 ad oggi, o comunque nella strumentalizzazione politica delle foibe. Grazie. Ma dunque, parto da questa seconda, poi la prima, se me la dimentico, ricordo, ma c'ho una certa età, non riesco a ricordarmi tutto. Innanzitutto partiamo da un presupposto fondamentale, cioè la maggior parte delle vittime sono vittime innocenti. Nel senso, cioè, ovviamente, se, non considerando la questione, diciamo, delle uccisioni, su cui il concetto di innocente dovremmo discuterlo a lungo, perché insomma, appunto, bisogna capire che cosa vuol dire essere o non essere responsabili di qualcosa, eccetera. Però, diciamo, lasciamo perdere questo: la maggior parte delle persone che portano avanti, che hanno portato avanti la memoria di questi eventi, sono gli esuli, cioè persone che sono andate via da lì, che sono assolutamente innocenti, cioè sono vittime della sconfitta dell'Italia in guerra, essenzialmente, e non sono direttamente responsabili di nulla, di nessun crimine commesso in precedenza, ma nemmeno ne sono consapevoli che ci siano stati dei crimini negli anni precedenti. Si racconta spesso come gli abitanti di Monaco non sapessero nemmeno ci fosse il capo da cau o cose di questo tipo. Cioè, non è così scontato che gli italiani che avranno vissuto lì per tutto il periodo del ventennio, per tutto il periodo della guerra, fossero consapevoli che ci fosse stato un comportamento negativo nei confronti degli slavi, per dire. Il campo di Arbe era vicinissimo, come abbiamo visto, alla città di Fiume, ma penso che nessuno a Fiume sapesse nemmeno che ci fosse il campo di Arbe. Quindi non c'è la percezione che in qualche modo l'ingiustizia che loro hanno subito alla fine della guerra sia una conseguenza di ingiustizie commesse dagli italiani in precedenza. O comunque, se anche c'è questa percezione, giustamente la percezione è: sì, ma non è colpa mia. Cioè, se l'esercito italiano ha commesso dei crimini, perché devo pagarli io? Cosa che è assolutamente condivisibile, peraltro. E in qualche modo davvero loro sono vittime non solo della sconfitta militare, ma anche delle colpe di altri. Cioè, le responsabilità sono dei generali che hanno dato l'ordine di bruciare il villaggio di Podum. Perché deve pagare il contadino il villaggio di fianco? Non c'è ragione. Quindi su questo sono assolutamente condivisibili le memorie di queste persone. E queste sono le memorie che giustamente loro hanno portato, ma il discorso che faceva all'inizio Giacomo sulla differenza tra storia e memoria è fondamentale. Chiaramente quando tu fai una politica della memoria non puoi basarti solo sulle memorie. Vanno benissimo le memorie, non vanno neanche ignorate o nascoste, cioè possono essere ricordate, ma devono essere integrate, devono essere incluse in un sistema, una costruzione che sia storicamente attendibile. Questo è il mio pensiero. Quindi per rispondere alla tua seconda domanda, ma arriverei alla prima, che però qual era? Ripetimi un po'. Diciamo le cause della revisione. Ah sì, ecco appunto, vedi che funzionava, sì. Cosa succede? Che invece la costruzione di questo racconto storico è stata fatta in maniera sballata, ma perché? Perché essenzialmente questa vicenda è stata sempre strumentalizzata politicamente, fin dal primo giorno. Ovviamente da chi? Dai fascisti, cioè nel senso che logicamente, ma dico fascisti veri, cioè non sto parlando dei fascisti del dopoguerra, i fascisti veri, perché già nel 43, immediatamente dopo le prime foibe istriane, quando i tedeschi riconquistano il territorio, tirano su i primi cadaveri da una foiba, vanno i fotografi e fanno dei grandi articoli sui giornali dicendo: vedete, i barbari slavi comunisti massacrano la gente innocente. E quindi questa strumentalizzazione avviene dal primo giorno dopo le prime foibe e viene portata avanti di conseguenza anche dopo il 45, sempre in ambienti di estrema destra, cioè sempre in ambienti che si rifanno al fascismo, al neofascismo. In qualche modo quindi diventa uno strumento della propaganda fascista, che ovviamente è molto marginale, molto ghettizzata nell'Italia del dopoguerra e che nessuno si prende la briga di in qualche modo smentire, tranne gli storici, nel senso che ricerche storiche ci sono già nel dopoguerra, ce ne sono molte negli anni 70-80, spesso fatte dagli istituti storici che vengono sempre accusati, istituti storici della resistenza, che vengono sempre accusati: ah, voi non avete fatto ricerca. Non è vero, la ricerca è stata fatta, però non avevano grande divulgazione perché non interessavano nessuno, era una vicenda marginale di cui si interessavano solo i fascisti. Sbagliando probabilmente, cioè non voglio dire, è stato un errore secondo me delle politiche della memoria del tempo, però è così andata. Dopodiché questa memoria, che quindi era già stata in qualche modo costruita, categorizzata secondo certe linee, anche secondo certe cifre, i 300.000, i 350.000 esuli, i 30.000 morti, cioè sono tutte, la pulizia etnica, sono tutte cose che già erano state create, categorizzate dai neofascisti. A un certo punto questa roba qua improvvisamente diventa la politica ufficiale, la politica della memoria ufficiale dello Stato italiano. Questo è incredibile, cioè come è potuto succedere? Questo è il passaggio clamoroso, e questo passaggio avviene attraverso un accordo politico, essenzialmente un accordo politico che viene fatto tra, credo che si chiamassero già DS all'epoca, e AN, nell'epoca degli accordi tra Violante e Fini, insomma in quell'epoca lì, che sostanzialmente sono utili ad entrambi, io credo che siano stati più utili alla destra, sinceramente, ed è, credo che sia stato un errore politico dei DS, però in quel contesto i DS lo ritenevano utile, come dire, presentare, scusate, questo accordo ha portato all'istituzione del giorno del ricordo, che è stato votato in maniera bipartisan dalla maggior parte dei partiti politici dello spettro politico italiano dell'epoca. Ma appunto, che cosa spinge i due rappresentanti politici a fare questo accordo? Ovviamente per AN, cioè per i neofascisti, è fondamentale, come dire, che un loro cavallo di battaglia, cioè un simbolo della loro storia, diventi memoria nazionale e che quindi in qualche modo venga sdoganato, e che quindi venga sdoganata in qualche modo la loro stessa storia politica, e questo è logico. Per i DS invece è necessario, dopo la storia del PC, presentarsi come un partito realmente nazionale, un partito che non nasconde i drammi del proprio popolo, della propria nazionalità, degli italiani, di noi italiani, anche quando sono stati comunisti a commettere quelle violenze. Quindi, come dire, un riconoscimento delle violenze fatte in nome del comunismo e delle violenze fatte contro gli italiani. Il PC, per quanto si chiamasse Partito Comunista d'Italia, Partito Comunista Italiano, era però in qualche modo soggetto al controllo dell'Unione Sovietica, o comunque è sempre stato accusato di essere soggetto al controllo dell'Unione Sovietica. Il distacco negli anni 90, dal lungo distacco, perché dura veramente un decennio, da questa percezione, diciamo, del PC e degli eredi del PC, passa anche attraverso questa scelta. Sì. Ci racconti in breve, diciamo, hai fatto riferimento alle ultime acquisizioni storiografiche e alle prime ricerche degli istituti storici della Resistenza. Oggi come sono le posizioni storiografiche rispetto a questo? Penso in maniera molto, io non sono del tema, ma era appunto per leggermi voi gli istituti storici della Resistenza, rispetto alle acquisizioni storiografiche che ci sono adesso, come sono posizionati gli storici? Ma guarda, io non saprei come risponderti, nel senso che io non ho la percezione che tra gli storici ci sia una così grande contrapposizione, cioè se non in termini, diciamo, di come si rappresentano di fronte all'opinione pubblica. Cioè è chiaro che ci sono storici come Pupo, che hai nominato, che è uno storico triestino che ha studiato molto questi temi e ha pubblicato diversi volumi su questo, che si presentano come storici istituzionali e che quindi vanno alle conferenze pubbliche indette dai comuni, dalle regioni e rappresentano, come dire, l'istituzione Italia che ricorda il giorno del ricordo. E poi ci sono gli storici invece meno mainstream, più schierati politicamente, Cernigoi, Kersevan, Purini, altri come anche io in fondo, che si trovano invece in situazioni più esterne alle istituzioni, diciamo così, a fare lo stesso lavoro. Ma di fatto, se tu vai a prendere le cose che dicono, non dicono cose tanto diverse, lo dicono magari con un tono diverso, magari con meno peli sulla lingua, però concretamente io devo dire, sono stato molto colpito quando c'è stata una trasmissione televisiva, adesso se ne fanno meno, ma c'è stata un'epoca in cui ogni anno si faceva Bruno Vespa si faceva bello invitando qualche personaggio bizzarro a parlare di foibe in televisione. Allora un anno è andato anche Pupo, per dire. Cioè Pupo lì sembrava Tito in persona, cioè nel senso, lui è stato segretario della DC a Trieste, insomma, voglio dire, è uno schierato in maniera molto, molto chiara, in maniera anticomunista, però voglio dire, cioè, lui ha fatto esattamente, ha raccontato più o meno le cose che vi ho raccontato io oggi. Non è che lui racconti cose diverse, perché di fatto se tu hai fatto un minimo di ricerca su queste cose non è che puoi inventarti le storie, cioè questo è più o meno quello che vi ho raccontato, è quello che è successo, e quindi puoi metterla in maniera un po' più polemica, ma di fatto la questione tra gli storici non è in discussione. Il problema è l'uso politico che se ne fa. È chiaro che alcuni alcuni storici più smaliziati si fanno anche utilizzare politicamente, ma ecco, devo dire, in quel caso per esempio Pupo a me è sembrato molto onesto, nel senso che poteva tranquillamente andare in televisione e fare il botto presentandosi come il vero storico di regime che dice cose che ci si vuole sentir dire, no? Invece lui ha detto delle cose impopolari dal punto di vista del potere politico, tant'è che non l'hanno mai più invitato in televisione, non è un caso secondo me. Però ecco, erano presenti in quel caso, in particolare un altro, si chiama Oliva, che è piemontese, lo conosco bene, che invece è un divulgatore, non ha mai fatto ricerca concretamente, però ha scritto anche lui un libretto sulle foibe perché si vende, e lui ha detto delle cazzate colossali, ma per ignoranza sostanzialmente, non per altro. Cioè, poi probabilmente lui davvero può farsi bello perché essendo del PD magari aveva bisogno di dimostrare, però insomma essenzialmente più per ignoranza che per altro. Il problema appunto è l'uso che si fa dal punto di vista politico e quelli che non sono storici, appunto, cioè chi non sa e le spara a caso, oppure spara le cifre più grosse per, appunto, per fare più impressione. E sono tanti, purtroppo, sono tanti e vengono spesso invitati agli incontri del giorno del ricordo. Cioè, purtroppo io credo che la maggioranza delle persone che parlano pubblicamente in occasione del giorno del ricordo sono persone che o non sanno o sono schierati politicamente su posizioni di estrema destra e portano avanti quel tipo di discorso per ragioni politiche, insomma. Sì, allora gli istituti storici sono, io ho la sensazione che si trovino in una condizione adesso molto delicata, perché mentre appunto negli anni 70 potevano tranquillamente permettersi di fare ricerca su questo perché era una questione marginale che non aveva nessun peso politico, oggi essendo così calda politicamente la questione ed essendo gli istituti storici enti parastatali, diciamo così, comunque che dipendono da fondi pubblici, devono fare molta attenzione a non sbilanciarsi, diciamo così, e quindi tendono ad avere un atteggiamento molto neutrale, molto pacato, molto attento. Devo dire, la sensazione che ho io è che nella maggior parte dei casi gli istituti storici non prendono posizione semplicemente. Negli ultimi anni, nella maggior parte della penisola, nel giorno della memoria, gli istituti storici della Resistenza fanno colossali incontri, conferenze, cose. Nel giorno del ricordo fanno finta di non esserci, si nascondono sotto la sabbia e aspettano che passi. E spesso succede così. L'istituto che conosco meglio, che è quello di Torino, in realtà ha una posizione neutra, però diciamo così, tendenzialmente molto legata alla memoria più mainstream, che soprattutto coltiva attraverso il ricordo degli esuli, proprio perché a Torino ci sono moltissimi esuli e quindi a Torino è proprio necessario avere una posizione sfumata. La scelta che è stata fatta lì, ma è stata fatta già 15 anni fa, è quella di sottrarre alle associazioni reducistiche degli esuli e di conseguenza anche alla destra il controllo della memoria di questa cosa. Quindi ne parlano loro, ne parlano in termini che vanno bene agli esuli, quindi ovviamente non dicendo cazzate, ma comunque in maniera molto attenta e quindi in qualche modo sottraendo all'estrema destra il controllo di queste cose. È molto difficile farlo, è molto raro, la maggior parte dei casi non si fa nulla, semplicemente. Tocca a lui, tu hai già parlato, non vale. Io lo chiedo adesso, qualche tempo fa video documentario su Rai Storia, dove parlavano dei spostamenti di forza di popolazione in Europa, però era globale il discorso, e ne parlava la professoressa Salvatici, mi sembra fosse, e si occupò alla fine, fecero un accenno all'esilio Giuliano Dalmata, e lei proprio lo accennò velocemente, disse che gli esuli subirono all'inizio una certa retorica che è la stessa che subiscono i profughi che vengono dall'Africa in Italia. Cioè, i profughi, Giuliano Dalmati, subirono la stessa retorica. Ecco, volevo sapere qualcosa di più nel dettaglio, perché fu detta proprio... Sì, ma no, questo è assolutamente vero. Diciamo, loro subiscono due tipi di reazioni, paradossalmente in qualche modo opposte, ma negative entrambe. Da una parte vengono accolti come stranieri, cioè gli danno gli jugoslavi semplicemente, tu sei jugoslavo, che vuoi, cioè non sei italiano. E, tra l'altro, questo dovuto anche banalmente al fatto che la maggior parte dei cognomi istriani sono slavi, effettivamente, come Kervatin, ma altri neanche italianizzati, molto spesso finiscono in Ic come i cognomi jugoslavi, quindi effettivamente hanno cognomi strani e quindi venivano percepiti come stranieri e quindi di conseguenza appunto ghettizzati o esclusi in quanto stranieri. Paradossalmente dico perché questa cosa viene rappresentata oggi in particolare come la scelta dell'italianità, gli italiani che abbandonano il nome dell'italianità e poi arrivano in Italia e li prendono per stranieri, quindi è una cosa veramente contraddittoria, ma purtroppo è andata così. Dall'altra parte vengono percepiti come fascisti perché in qualche modo hanno abbandonato terre comuniste per venire in Italia. Quindi questo, per, secondo me, totale ignoranza da parte degli attivisti comunisti nel resto d'Italia rispetto a cosa vuol dire vivere in un paese comunista nel 45. Perché io ribadisco, penso che sia stata una scelta per certi versi molto, molto sofferta, ma per certi versi condivisibile, quella di abbandonare quel territorio in quel contesto, anche solo per ragioni proprio di sopravvivenza quotidiana. Questa cosa è stata molto forte, si racconta molto spesso, è stata molto traumatica da un punto di vista proprio simbolico, direi, più che concreto, nel senso che molti di questi esuli, per esempio, raccontano dei ferrovieri a Bologna, questo è un classico racconto, i ferrovieri a Bologna, ovviamente Bologna è città rossa, ferrovieri per antonomasia sono la classe operaia più comunista, che li insultano, gli danno i fascisti, gli sputano sul treno, eccetera. È successo, sono storie simili anche alla Fiat a Torino, appunto, con i profughi che arrivano e vengono gli operai politicizzati alla Fiat, li trattano male considerandoli fascisti. Peraltro li trattano male alla Fiat anche perché gli esuli hanno diciamo una possibilità in più di entrare, cioè sono primi in graduatoria, diciamo, per entrare alla Fiat. Moltissimi entrano alla Fiat proprio perché la Fiat li assume prima degli altri. Sia perché c'è un accordo con lo Stato italiano e sia perché li considera anticomunisti e quindi sono, possono essere utili appunto per depoliticizzare la classe operaia della Fiat. Non so se ho più o meno risposto alla domanda. Siccome mi piace parlare, questa è una tripla domanda. Allora, prendo appunti. Allora, prima parlavamo appunto dei, appunto senza fissarci troppo sui numeri, però per avere un'idea, diciamo, delle grandezze, immagino che 250-180.000 persone che se ne vanno da quelle zone siano in realtà anche un disastro economico e sociale fortissimo per quelle zone. Io non so quante persone c'erano in quelle zone in quel periodo, ma non penso troppe di più, cioè non penso che vadano sopra il milione, ecco. E quindi mi chiedo, ma i comandi jugoslavi, Tito e così via, insomma, non si sono mai posti in ottica anche di una politica che tentasse di tenere queste persone in quelle zone, proprio con l'obiettivo poi di fare di quelle zone delle zone jugoslave e avere comunque una forza economica, sociale che mantenga viva quelle zone. La seconda domanda invece riguarda ciò che è successo dopo la rottura tra il Tito e Stalin, rispetto anche agli italiani che sono rimasti e che penso in molti fossero anche comunisti, anche tra quelli della resistenza, italiani che hanno combattuto insieme alle brigate partigiane di Tito, è cambiato qualcosa nel rapporto tra la Jugoslavia e i comunisti italiani, vista anche la posizione del Partito Comunista Italiano legato a Stalin, con personaggi come Togliatti che erano fra poco quasi il braccio destro di Stalin, quindi ecco, insomma, la prospettiva che ha tenuto la Jugoslavia rispetto ai comunisti italiani che sono rimasti in quelle zone è cambiata dopo la rottura tra Stalin e Tito. E l'ultima cosa, parlavamo di come hanno visto gli esuli questa esperienza e come erano visti gli esuli, quindi abbiamo visto, diciamo, la prospettiva dal basso, ma diciamo nei corpi intermedi, le associazioni appunto di esuli, come si sono schierate, che tipo di linea portavano avanti, sono state partecipi anche loro di processi forse a volte anche poco opachi rispetto alla costruzione della memoria di questi eventi? Fantastico, cerco di essere breve perché sennò facciamo mezzanotte. Allora, parto dalla fine. Le associazioni sono tantissime innanzitutto, cioè non c'è un'unitarietà in questo soprattutto io credo anche per ragioni di diffusione geografica, in realtà sono in tante parti d'Italia, quindi spesso sono associazioni più forti in una località piuttosto che in un'altra, tendenzialmente hanno avuto lo scopo di, come dire, di portare avanti, di proteggere, di difendere una memoria che effettivamente non era una memoria mainstream, una memoria portata avanti ufficialmente dallo Stato italiano, e quindi in qualche modo hanno, in maniera benemerita potremmo dire, conservato la memoria di queste persone. Dall'altra parte, diciamo che nel momento in cui questa memoria improvvisamente, perché così è andata, improvvisamente è diventata invece la memoria ufficiale, una memoria in cui, di cui bisognava invece andare fieri, di cui bisognava parlare tanto, eccetera, sono spesso stati fortemente strumentalizzati. Ma proprio per incapacità, perché non era il loro, non avevano sviluppato, come dire, gli anticorpi nel corso degli anni precedenti, in qualche modo nel rapporto con la politica, con l'uso politico che si fa di queste memorie. Per cui quando improvvisamente, come dire, questa roba è diventata una memoria comune, con grande felicità si sono fatti strumentalizzare, ma involontariamente, inconsapevolmente, io credo nella maggior parte dei casi, ma felicemente, nel senso che è chiaro che quando vengono improvvisamente la tua memoria finisce in televisione su tutti i giornali, sei contento e te ne freghi se la porta avanti i fini, voglio dire, non è il tuo problema, anzi dici, se lui ci pensa a noi, bene, voteremo per lui, insomma, non so. Questo appunto non vuol dire, al di là dello scherzo, che i profughi estremi siano tutti fascisti, assolutamente, o lo siano diventati, io credo proprio di no, credo invece che le dirigenze di queste associazioni spesso abbiano subito senza reagire queste strumentalizzazioni. In alcuni casi, come per esempio a Torino, l'attività dell'istituto storico è stata utile per sottrarre dal controllo delle destre queste associazioni, che invece fanno parte di una cosa che si chiama Polo del Novecento, che racchiude tutte le associazioni, le istituzioni di memoria del Novecento, quindi in qualche modo soggette a un controllo istituzionale, ma anche a un controllo reciproco di altri enti che si occupano di memoria del Novecento, e quindi in qualche modo sono integrate e non soggette a strumentalizzazione delle destre. Invece, allora, diciamo che i profughi, allora, l'Istria si è realmente spopolata in questi anni, si è realmente spopolata in alcuni casi in maniera veramente drammatica. Il caso di Pola è quello più noto. Pola rimane in realtà, non so se c'è in questa, sì, si vede la città di Pola, è questa qui giù in basso, e si vede che fa parte di un territorio a parte, perché rimane sotto controllo militare anglo-americano fino al 47, mentre il resto del territorio B, cosiddetto, finisce comunque sotto controllo jugoslavo anche dopo il 45. Invece questo territorio qua rimane sotto controllo americano, e quindi qui la popolazione italiana rimane in massa fino al 47. Quando nel febbraio del 47 si fa il trattato di pace, questa zona finisce alla Jugoslavia, e quindi decidono di andarsene, e qui se ne vanno praticamente tutti, veramente la Pola si spopola completamente ed è una grossa città, ma in generale comunque l'Istria va via il 70-80% della popolazione, anche se è difficile fare dei conti precisi. Ovviamente è un danno anche economico, per non solo d'immagine, ma soprattutto economico per lo Stato jugoslavo, che infatti cerca di evitare, come dicevo prima, in tutti i modi la fuga degli italiani. Addirittura la cosa interessante, sempre riguardo alla questione della pulizia etnica, è che le stesse autorità jugoslave, le autorità comuniste jugoslave del dopoguerra, attive in Istria, tanto per capire, comunicano tra di loro in italiano. Cioè, i documenti che tu vai a studiare di queste autorità che avrebbero espulso gli italiani sono scritti in italiano, perché la lingua di uso comune era ancora l'italiano comunque. Quindi non c'è una volontà di espulsione degli italiani, al contrario, c'è un tentativo di trattenere soprattutto, diciamo, la massa. Magari tutto sommato, se se ne vanno via gli ex impiegati pubblici piuttosto che gli insegnanti, ma che se ne vadano pure, tanto abbiamo bisogno di insegnanti che parlano slavo, non più di quelli che parlano italiano, ma però che la massa della popolazione se ne vada è veramente un dramma. C'è un evento che è la strage di Vergarolla, che è una spiaggia di Pola, che viene ricordato spesso come un evento traumatico, forse il più traumatico nel dopoguerra. Avviene nell'estate del 46, quindi subito prima di quello che poi sarà l'esodo da Pola, appunto nell'inverno del 47, e dove praticamente una serie di mine che erano appoggiate sulla mine navali, erano appoggiate su una spiaggia, e una spiaggia molto affollata perché c'era una festa estiva, eccetera, esplodono improvvisamente e muore un sacco di gente. Questa strage ancora oggi non è stato appurato da chi è stata fatta, è una delle tante stragi italiane del dopoguerra di cui non si sa ancora i responsabili, ma ovviamente nella memoria viene sempre raccontata come la strage fatta dai servizi segreti jugoslavi per convincere gli italiani ad andarsene. Non c'è nessuna fonte che dimostra questo, al contrario verrebbe da pensare proprio il contrario, che è una strage voluta, magari neanche, anzi molto probabilmente non da qualcuno, da qualche italiano del posto, molto probabilmente o dai servizi segreti italiani o dai servizi segreti americani, essendo sotto controllo americano quel territorio, per appunto dimostrare quanto sono cattivi i comunisti e spingere gli italiani ad abbandonare quell'area. È interessante la storia, probabilmente saprai, magari volevi arrivare a questo, degli operai di Monfalcone, cioè ci sono alcuni casi, in realtà relativamente pochi, di italiani che vanno, fanno un controesodo, cioè che vanno nel periodo dell'esodo, vanno in Jugoslavia per costruire il comunismo, il socialismo, italiani ovviamente schierati politicamente, molto ideologizzati, molto vicini al comunismo. In particolare questi operai di Monfalcone, c'è un gruppo molto numeroso, centinaia di operai dei cantieri navali di Monfalcone che decidono di andare, trasferirsi in Jugoslavia, in particolare lavoreranno nei cantieri navali di Capodistria e di Fiume, appunto con l'idea di costruire il socialismo. Vengono ben accolti ovviamente, anche perché sono operai specializzati, molto utili per l'economia, eccetera. Non solo loro, ma soprattutto loro, dopo la rottura tra Tito e Stalin, che avviene nel 48, subiscono una dura repressione da parte jugoslava, perché dal 48 in poi, cioè dalla rottura appunto internazionale tra la Jugoslavia di Tito e l'Unione Sovietica, gli italiani vengono percepiti, visto che il PC è molto schierato sulle posizioni sovietiche, gli italiani vengono percepiti come filo sovietici. E quindi anche quando non ci sono prove, a meno che tu non sia apertamente schierato a favore di Tito, spesso viene comunque accusato di questo e rischi moltissimo, rischi la galera, molti finiscono in galera, alcuni finiscono a Goliotto, che è il campo di concentramento di Tito, tra l'altro Goliotto che è un'altra isola vicinissima a Darbe, sempre in quest'area. E quindi ci sono storie veramente drammatiche di alcuni di questi operai di Monfalcone che sono andati lì con le massime aspettative e poi si finiscono a Goliotok. Fortunatamente Goliotok è una vicenda che riguarda poche migliaia di persone ed è circoscritta nel tempo, negli anni immediato dopoguerra, però è sicuramente una delle storie più drammatiche, io credo, della storia jugoslava. Questo anche per ribadire il fatto che vivere nella Jugoslavia del dopoguerra non era per niente facile. Ribadisco, anche dopo la rottura con Stalin, la Jugoslavia è stato un paese stalinista, un paese che ha adottato le stesse strategie, sia economiche sia anche repressive dell'Unione Sovietica, almeno fino a metà degli anni 50. Poi la storia cambia, poi diventa un paese completamente diverso e potremmo parlarne a lungo. Però questi sono anni davvero difficili. Ho risposto. Scusate. Non siamo obbligati a fare le due di notte, comunque, cioè, quando siete stanchi, io posso andare avanti all'infinito, però quando siete stanchi ditelo, vi lascio andare. Ah, siete obbligati a comprare un libro prima di uscire, questo lo sapevate, no? Dio distrutti. Io vi saluto, vado via, voi fate come volete, è stato bellissimo, grazie, alla prossima. Ciao.